per te farò le cose che nessuno ha fatto mai, e per te darò la vita se tu un giorno lo vorrai. Io per te andrò lassù ed accenderò una stella, e con lei poi verrò giù per stupirti se sarai sveglia. E Street.